Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. All'Italia ancora disagio a Fiumicino e in altri aeroporti, ok da Bruxelles al piano, tra poco l'intervista al ministro Sacconi. La rabbia della CGIL per l'incontro fra Berlusconi e vertici di CISL e UIL, pronti a passi formali, dice Epifani. L'Europa abolisce le misure obbligatorie per 26 ortaggi, l'Italia era contraria insieme alla maggioranza dei paesi. 10 vigili indagati per il pestaggio dello studente ghanese a Parma. La discarica di Malagrotta, il giorno dopo il sequestro del gasificatore si rischia un'altra Napoli. La vita difficile di un cronista iracheno, reportage da Baghdad, il nostro Adib Fateh Ali in prigione per un giorno. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. In primo piano ancora la vicenda Alitalia. La compagnia ha fatto sapere questa mattina sono stati cancellati 50 voli tecnicamente per riallineare l'operativo dopo lo sciopero selvaggio di 24 ore che si è concluso ieri alle 18. Nello stesso tempo però i sindacati autonomi fanno sapere che oggi non è in corso alcun sciopero bianco. I disagi però effettivamente ancora ci sono. Sì, tra le spiegazioni il presidente dell'AVI, uno dei sindacati autonomi, dice i tempi che intercorrono tra un volo e l'altro in queste condizioni sono oggettivamente insufficienti. Ministro Sacconi, buongiorno. Buongiorno. Ministro Sacconi, ministro del welfare. Lei ha detto in questi giorni a proposito dello sciopero selvaggio che hanno attuato alcuni dipendenti all'Italia, le sanzioni nei confronti di chi ha fatto lo sciopero devono essere applicate. Ma sappiamo che spesso le sanzioni in questo caso non si riesce ad applicarle realmente. Perché e che cosa si può fare in questo caso? Lei ha ragione ed è per questo che il Consiglio dei Ministri ha già approvato in linea di massima un disegno di legge di modifica dell'attuale disciplina sulla regolazione del diritto di sciopero nei servizi di pubblica utilità. Ci accingiamo a consultare le parti sociali per poi avviare l'esame da parte del Parlamento. Le sanzioni sono purtroppo affidate allo stesso datore di lavoro che per varie ragioni propende a non applicarle, mentre dobbiamo invece incaricare per esse o il prefetto o l'agenzia delle entrate, in modo che sia inesorabile l'applicazione della sanzione che costituisce la necessaria deterrenza per le violazioni relative allo sciopero là ove, come nei servizi di pubblica utilità, si deve conciliare con la necessaria tutela degli utenti. In questi giorni, peraltro, si sono manifestati anche comportamenti illegali al punto da costituire con ogni probabilità reato, il reato di interruzione di pubblico servizio, e io mi auguro che la magistratura, come già ha iniziato a fare, voglia individuare i responsabili e avviare il necessario procedimento. Quando lei parla di reato si riferisce a quei dipendenti che hanno impedito per esempio ad altri piloti assistenti di volo di accedere in aeroporto o anche a chi per esempio non si è presentato al lavoro? Ma certamente è il caso di chi ha organizzato picchetti di fronte agli accessi del personale di volo. Noi non possiamo mettere il paese in ginocchio per un centinaio di persone, oltretutto la poca loro rappresentatività diventa un aggravante per azioni di questo tipo. Forse era inevitabile che ci fosse una tensione quale stiamo vivendo in questi giorni, in queste ore, purtroppo a danno degli utenti, ma il progetto CAI va avanti, noi siamo determinati, non ci sono alternative a questo progetto, la resistenza di questi settori è destinata a perdere, a crollare di fronte all'unico modo possibile di dare una prospettiva alla compagnia di bandiera. Ministro, accennava poco fa alla riforma del diritto di sciopero per i servizi di pubblica utilità. Prevede che in seguito anche alla vicenda Alitalia darete un'accelerata a questa riforma e comunque che tempi prevede? Ma noi siamo determinati a produrre una riforma della regolazione del diritto di sciopero in generale e in particolare nei servizi di pubblica utilità. Come ho detto, vogliamo fare una consultazione preventiva delle parti sociali, proprio perché la materia è delicata, e vogliamo realizzare una migliore conciliazione fra questi due diritti costituzionalmente tutelati, quello degli utenti e quello dei lavoratori allo sciopero. Procederemo ancor più incoraggiati da queste situazioni. L'Italia non si può più permettere che anche forme di microconflittualità paralizzino il paese e magari lo facciano anche con il solo annuncio di un'azione che poi non si realizza nemmeno, perché una delle regole che per esempio dovremmo applicare è che la revoca stessa deve essere prodotta con congruo anticipo se i lavoratori vogliono evitare di perdere le ore di lavoro per adesione allo sciopero. Possiamo immaginare l'inizio dell'anno prossimo per l'avvio dell'iter un pochino più concreto? Credo proprio di sì. Sacconi, questa mattina, sempre sul fronte sindacale, non riguarda strettamente il caso all'Italia, ci sono state dichiarazioni dure da parte del segretario della CGIL Epifani sull'incontro che sarebbe avvenuto ieri sera a Palazzo Grazioli fra Berlusconi, alcuni ministri, presidente di Confindustria Marcegaglia, CISL e UIL. Insomma, la CGIL non è stata invitata. E così Epifani ha detto: se questo incontro è realmente avvenuto, si apre un problema formale nei rapporti con le altre organizzazioni sindacali e con la Confindustria. Lei cosa ne pensa di questa cosa? Ma io penso che ci sia un problema sostanziale, altro che di incontri informali che ci possono o non ci possono essere stati. Il problema sostanziale è quello di una CGIL che si è isolata dalle altre organizzazioni, che non ha sottoscritto il primo documento circa la modifica del modello contrattuale, che invece è stato condiviso da CISL, UIL e Confindustria, come si è sottratta alla responsabilità di firmare l'accordo quadro per l'impiego pubblico, come si è sottratta al contratto per il commercio, come purtroppo sta facendo in molte condizioni, in molte circostanze. Spero che intervenga una riflessione all'interno di quell'organizzazione, perché il fatto di isolarsi da tutti gli altri attori sociali, prima ancora che dal governo, non può non generare riflessione sulla linea sin qui seguita da questa organizzazione. Insomma, Sacconi, lei sta dicendo: se la CGIL non è stata invitata è colpa sua, perché si è isolata. Guardi, nelle trattative. Guardi, gli incontri informali rientrano per fortuna nella libertà responsabile di tutti gli attori sociali, istituzionali, e sono all'ordine del giorno e tutti si incontrano con tutti continuamente. Il problema non è formale, non è formalistico, il problema è sostanziale. Si rifletta la CGIL sul fatto che di mettere continuamente veti su tutto e di non partecipare invece del necessario cambiamento che nella relazione industriale è fondamentale per poter reggere al tempo difficile al quale andiamo incontro, nel quale occorre maggiore semplicità nelle stesse relazioni industriali e soprattutto maggiore loro efficacia sia per i lavoratori che per le imprese. Ultima cosa, Ministro, quindi ci conferma che questo incontro c'è stato? No, io non ne ho confermato niente, ho detto solo che gli incontri avvengono continuamente, io incontro dalla mattina alla sera esponenti sindacali o confindustriali, gli incontri informali sono da sempre nella prassi delle stesse relazioni industriali o tripartite con il governo. E ripeto, c'è un problema politico sostanziale, altro che formalismi su chi è invitato o non è invitato a questo incontro. Ministro, è stato chiarissimo, la ringraziamo per essere stato con noi in apertura del nostro GR Extra Large e buona giornata. Grazie a voi. E noi adesso ci spostiamo a Roma per sapere un po' l'andamento, come stanno andando insomma i voli all'Italia. Prima vi dicevamo non sarebbe in atto uno sciopero bianco, ma ci sono comunque ritardi e cancellazioni. Elisabetta Fiorito, com'è la situazione? Beh, un'altra giornata difficile per i trasporti aerei, terminato lo stop di 24 ore deciso da piloti e assistenti di volo, ritardi e disagi per questo presunto sciopero bianco dei dipendenti delle 5 sigle del NO, ovvero, ricordiamo, l'applicazione rigida del regolamento. Comunque sono almeno 50 i voli cancellati dall'Italia. Nel dettaglio, i voli cancellati da Fiumicino sono 13, da Milano Linate 18 in arrivo e partenza, da Malpensa 4. Cancellati poi 14 voli della tratta Fiumicino-Linate, 8 in partenza da Linate, 6 da Fiumicino. L'unico collegamento internazionale, intercontinentale, non operativo è invece Roma-Chicago. Elisabetta, ci sono anche novità da Bruxelles? Sì, la novità è che Bruxelles approva il piano CAI, la compagnia aerea italiana potrà rilevare gli slot finora in possesso di Alitalia, e a questo proposito ha parlato il commissario europeo ai trasporti Antonio Tajani. La Commissione ritiene che se la vendita degli asset di Alitalia sarà realizzata al prezzo di mercato, l'operazione non comporterà aiuti di Stato. La Commissione ritiene inoltre che non ci sia continuità tra Alitalia e la compagnia aerea italiana e che gli aiuti di Stato che Alitalia ha ricevuto in passato non possono essere ascritti alla responsabilità patrimoniale della nuova compagnia aerea italiana. Un blocco quasi monotematico dedicato a temi sindacali e di Alitalia. Vediamo di alleggerirlo lievemente con una vicenda che arriva dall'Inghilterra. Sì, e che interesserà molto i fan dei Beatles. Basterà sentire semplicemente le prime note per capire. Look at all the lonely people, guarda tutte le persone sole, ed è uno dei racconti di solitudine più toccanti della storia della musica, quello di Eleanor Rigby, che raccoglie il riso in una chiesa dove c'è stato un matrimonio, vive in un sogno, truccandosi e aspettando alla finestra senza che nessuno arrivi a portarla via. E padre Mackenzie, che scrive un sermone che nessuno ascolterà, celebrerà il suo funerale al quale nessuno vorrà partecipare. Ma chi era Eleanor Rigby? May I ask about the song Eleanor Rigby? What was the motivation or inspiration for that? To quiz. Nel lontano 1966 i Fab Four erano quattro ragazzacci e la risposta di John, la canzone parla di due checche, serviva ad azzittire i giornalisti americani e le loro domande un po' sceme. Paul McCartney spiegava che il nome era quello dell'attrice Eleanor Brown, che aveva recitato con loro in Help, e Rigby veniva da un'enoteca di Bristol. Ma negli anni 80, in un cimitero a Walton, Liverpool, dove Paul e John andavano a prendere il sole, venne individuata una lapide con il nome di Eleanor Rigby, nata nel 1895 e morta nel 1939. Qualche tempo fa, Paul McCartney regalò al Sunbeam Trust Charity un foglio del 1911 proprio con la firma di Eleanor Rigby, giovane inserviente nelle cucine dell'ospedale di Parkhill a Liverpool. Il documento ora va all'asta all'Idea Generation Gallery di Londra, insieme alla catena con lucchetto di Sid Vicious e alla chitarra di Didi dei Ramones. Ma è lei o no la vera ispirazione? Forse quello che importa è il mito, come del resto quello della misteriosa morte di Paul McCartney, le cui prove provate starebbero anche nel cartone animato che a Eleanor Rigby era stato dedicato. And something should be done about it, right? Right! Tell them about Eleanor Rigby. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La Commissione europea ha dato l'ok al piano di salvataggio dell'Alitalia, approvando le decisioni proposte dal vicepresidente responsabile dei trasporti Antonio Tajani. Dopo lo sciopero di ieri, che ha visto la cancellazione di 124 voli, per oggi la compagnia prevede l'annullamento di altri 50. Entro l'inizio dell'anno lavoreremo ad una riforma sulla riforma del diritto di sciopero, dice ad XL il ministro Sacconi. E Sacconi ha commentato poco fa anche lo strappo fra il governo e la CGIL dopo la notizia delle incontro a Palazzo Grazioli fra il Presidente del Consiglio e i soli segretari di CISL e UIL. La CGIL, ha detto Sacconi, rifletta su se stessa. L'Europa ha abolito alcune le misure obbligatorie per 26 ortaggi che dovevano essere garanzia di qualità. L'Italia era contraria insieme alla maggioranza dei paesi. La votazione è finita con 16 paesi contrari e 9 favorevoli, e però la proposta alla fine è passata. 10 vigili sono indagati a Parma per il pestaggio dello studente ghanese. La discarica di Malagrotta, il giorno dopo il sequestro del gassificatore, alcuni dicono che si rischi un'altra Napoli, ne parliamo tra un attimo. E allora parliamo della situazione di Malagrotta. Quando era scoppiata l'emergenza rifiuti a Napoli, mi riferisco all'ultima emergenza, avevamo parlato in extra large di un'altra situazione a rischio, quella appunto di Malagrotta, che è la più grande discarica d'Europa, che si trova alle porte di Roma. Ora in quella discarica è stato sequestrato il gassificatore, ossia un impianto che ricava dai rifiuti combustibili gassosi, insomma una sorta di alternativa agli inceneritori. A Malagrotta c'è la nostra Francesca Malaguti, che ci andò anche allora, tra l'altro. Francesca, che cosa ci puoi raccontare rispetto ad allora? Come vedi Malagrotta adesso? Beh sì, buongiorno, mi trovo su una stradina che costeggia proprio una delle montagne di rifiuti di Malagrotta e rispetto a un anno fa sembrano ancora più alte, questo si vede a occhio nudo. Il gassificatore al centro del caso giudiziario di questi giorni è proprio qui di fianco alla discarica. Avrebbe dovuto, pensate, essere inaugurato domani, invece è chiuso, alle porte ci sono i sigilli della magistratura, tutto intorno nastro da cantiere bianco e rosso. I carabinieri lo hanno sequestrato ieri, secondo la procura di Roma mancherebbe la certificazione antincendio e ci sarebbero anche altre inadempienze. Sono due gli indagati, il presidente del consorzio che gestisce il sito e il responsabile dell'impianto Francesco Rando, già condannato tra l'altro pochi giorni fa per lo smaltimento di rifiuti pericolosi in discarica. Ora dunque il gassificatore è fermo e sentiamo che cosa ha detto al microfono di Valeria De Rosa l'assessore del Lazio con delega ai rifiuti Mario De Carlo. Ci ha colto di sorpresa la tempistica, però non ce lo aspettavamo, nel senso che ogni qualvolta si prova a mettere le mani sul tema del, diciamo, della costruzione di un sistema di trattamento dei rifiuti moderno e civile, ci si imbatte in queste cose. Ma che cosa dovrebbe fare il gassificatore? Precisamente dovrebbe smaltire i rifiuti in forma di CDR, ossia la parte di scarto lavorato, e li dovrebbe smaltire in gas per produrre energia elettrica, una doppia utilità quindi, che diminuirebbe anche il carico di spazzatura sversata ogni giorno nella discarica Malagrotta, che è la più grande di Roma e da anni è a rischio saturazione. Sentiamo come ha preso la notizia del sequestro del gassificatore Francesco Raffaelli, sentito poco fa, che è il rappresentante del comitato Le Città di Roma, che da anni si batte per la chiusura della discarica. Sentiamolo. A nostro avviso è una pessima notizia. È una pessima notizia perché ovviamente l'inaugurazione del gassificatore doveva essere ovviamente l'inizio di una nuova gestione dei rifiuti basata sugli impianti e raccolta differenziata. L'aver bloccato il gassificatore riapre le porte a quella che è l'era dell'interramento dei rifiuti in discarica. La discarica di Malagrotta dovrebbe essere chiusa dal 2003, e dal 2003 che passa di proroga in proroga. Grazie Francesca Malaguti, tra poco diciamo andremo dai rifiuti a parlare di ortaggi con la decisione della Commissione Europea della quale vi parlavamo poco fa. Nel frattempo però vi vogliamo raccontare di un documentario, un documentario che parla di 73 ragazzi ebrei in fuga per l'Europa durante le persecuzioni naziste. Vengono messi in salvo dagli abitanti di un paesino del Modenese. Su questa storia vera è stato fatto un documentario. Una volta passato il recinto è scattato l'allarme e i tedeschi hanno cominciato a sparare in aria. Albert Israel, Sarina Atias, Gerda Tuckner sono alcuni dei 73 ragazzi ebrei profughi dalla Germania, dalla Jugoslavia e dall'Austria che tra il 42 e il 43, grazie alla DELASEM, l'Organizzazione per l'Aiuto agli Ebrei in Europa, si rifugiarono a Nonantola, la Villa Emma. Quel centro a pochi chilometri da Modena divenne per loro una piccola parte di mondo, allontanata dal male della guerra grazie alla solidarietà degli abitanti del posto che con il loro impegno civile custodirono i ragazzi nelle abitazioni anche quando arrivarono i tedeschi. Dopo oltre 60 anni, quei giovani, ormai divenuti anziani, raccontano la loro storia in un film documentario realizzato per il programma televisivo La storia siamo noi, dal regista Aldo Zappalà. Gli abitanti di Nonantola non sono stati a suo tempo questo, lo sono ancora oggi, perché Nonantola è un paese dove l'integrazione con i migranti, cioè con gente che viene da tutti gli altri paesi, diventa un dato di fatto. Ma figuratevi che a Nonantola oggi ci sono delle strade dedicate a dei sufi musulmani. Presentato in anteprima alla Casa della Memoria di Roma e in onda stasera dopo la mezzanotte su Rai 3, il lavoro è un piccolo scrigno di emozioni, un omaggio che la Fondazione Villa Emma e quei ragazzi sfuggiti alla Shoah donano alla popolazione di Nonantola che permise loro di raggiungere la Svizzera. Oggi vivono tutti in Israele. Vanessa Colangiuri, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'avevamo accennato prima, oggi la Commissione europea ha deciso di liberalizzare la vendita di 26 prodotti ortofrutticoli senza l'obbligo di rispettare determinate dimensioni. Eh sì, perché forse non lo sapevate girando per i supermercati o i mercati. Fino ad oggi c'erano degli standard europei che stabiliscono, per esempio, che una zucchina deve essere lunga da 7 a 35 centimetri, mentre una mela deve avere un diametro fra i 60 e i 70 millimetri, misure che in qualche modo determinano uno standard di qualità. Ora dunque si cambia in questo senso, ma quali le conseguenze? Lorenzo Bazzana, buongiorno. Buongiorno. Lei è responsabile economico della Coldiretti. Sì. Dimensioni quindi liberalizzate per frutta e verdura a scapito della qualità? Ma noi riteniamo che questa non sia una decisione diciamo condivisibile, a parte il fatto che si tratta di una non decisione, perché è stato votato il provvedimento, in 16 paesi hanno votato contro, 2 si sono astenuti e quindi non essendoci una maggioranza qualificata, nella sostanza la Commissione andrà avanti nella sua decisione e questo è molto curioso. Ma a parte questo è chiaro che si tratta di una decisione che va a diminuire quello che è il livello di qualità dei prodotti all'interno dell'Unione Europea. Ci spieghi una cosa, Bazzana, però riduce anche i prezzi oggettivamente, quindi in realtà dovrebbe essere benefico per i consumatori. Che riduca i prezzi è tutto da vedere, perché ovviamente questo tipo di provvedimento potrà ridurre i prezzi nella misura in cui ci saranno prodotti di minore qualità sul mercato. E quindi non è che pagheremo di meno prodotti della stessa qualità, rischiamo di pagare di meno prodotti che valgono di meno. Ma il fatto che si abbassino i prezzi di prodotti di scarsa qualità o di minore qualità non fa abbassare automaticamente anche quelli di alta qualità? No, il rischio è che non ci siano più quelli di alta qualità, nel senso che se si abbassa troppo il prezzo, evidentemente chi produce rischia di non starci più dentro e quindi la situazione che si potrebbe venire a creare è quella che il prodotto di alta qualità non ci sia più perché costi troppo poco e quindi chi lo produce non riesce a rientrare dai costi di produzione. Insomma, vostra posizione è altamente critica nei confronti di questa decisione presa oggi dalla Commissione europea. Ma, ripeto, è una posizione critica della Coldiretti, ma di tutti gli operatori italiani della filiera, ed è una posizione condivisa da altri 15 Stati membri dell'Unione europea. Grazie a Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti, per essere stato con noi. Buona giornata. Sono le 13:33 minuti, questo è il GR Extra Large, le notizie della giornata. La Commissione europea ha dato l'ok al piano di salvataggio all'Italia. Dopo lo sciopero di ieri, che ha visto la cancellazione di 124 voli, per oggi la compagnia prevede l'annullamento di altri 50. Entro l'inizio dell'anno lavoreremo sulla riforma del diritto di sciopero, dice ad XL il ministro Sacconi. E Sacconi ha commentato anche lo strappo fra il governo e la CGIL, dopo la notizia dell'incontro a Palazzo Grazioli fra il presidente del Consiglio e i soli segretari di CISL e UIL. La CGIL, ha detto Sacconi, rifletta su se stessa. Cresce l'occupazione, ma gli italiani sono insoddisfatti della loro condizione economica. I dati emergono dall'annuario dell'Istat. 8 agenti, un ispettore capo e un commissario capo della Polizia Municipale di Parma sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura della Città Emiliana per il presunto pestaggio della ghanese Emmanuel Foster, avvenuto lo scorso 29 settembre. Fra le accuse, percosse aggravate, calunnia, ingiuria e violazione dei doveri d'ufficio. E ne arriva una nuova ondata di maltempo. Gli esperti del Dipartimento Protezione Civile prevedono da oggi l'ingresso sull'Italia di una perturbazione che arriverà prima sulle regioni nord-occidentali e dopo su tutto il paese. Annuario statistico dell'Istat diffuso oggi, a questo è dedicato il nostro approfondimento economico. Ci sono dati interessanti appunto sul fronte economico. Andrea Viali. Sì, Alessandra, il dato che colpisce di più forse è quello che fotografa la crescente sfiducia degli italiani nell'andamento dell'economia, nella propria situazione economica. Secondo l'Istat, infatti, gli italiani hanno iniziato ad avvertire le prime difficoltà già prima del crollo dei mercati finanziari, crollo recente dei mesi scorsi, delle settimane scorse. Infatti, secondo l'Istat, la quota di famiglie che ha giudicato peggiorata la propria situazione situazione economica rispetto all'anno precedente si attesta oggi al 54,5%, nel 2007 questa quota si fermava al 41%. A fronte di questo calo di fiducia, l'Istat rileva comunque che per quanto riguarda invece l'occupazione le cose vanno decisamente meglio, se è vero che le percentuali dei disoccupati e degli occupati sono ai livelli migliori dal 1992, in sostanza crescono gli occupati mentre calano i disoccupati. Altro dato interessante, sempre dal punto di vista economico, è quello che riguarda sul fronte dei consumi, le auto e i cellulari, che a quanto pare sono dei beni ai quali gli italiani comunque non rinunciano. Infatti, secondo l'Istat, nel nostro paese circolano attualmente più di 35 milioni di autovetture, mentre le linee di telefonia mobile sono oltre 81 milioni e 600 mila. Chiarissimo Andrea, sempre meno in realtà, anche a causa, cioè lo vediamo quotidianamente, con il calo delle immatricolazioni. Grazie Andrea Viali in diretta da Roma. Ci hai parlato tu di occupazione, noi parliamo di alcuni occupati, quelli tedeschi. Sì, quelli tedeschi, perché in Germania si prospetta uno sciopero dei metalmeccanici, cosa che non si verifica da 6 anni. Giulia Crivelli, questa è una notizia che viene riportata oggi dai giornali tedeschi. Sì, tutte su tutte le prime pagine della Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Faz, la Süddeutsche Zeitung, quindi un giornale del nord, un giornale del sud e poi naturalmente i giornali economici. C'è una trattativa in corso, però sembra che sia molto difficile. Perché? Perché le richieste dei sindacati sono di un aumento, adesso che deve essere firmato un nuovo contratto, dell'8%, gli imprenditori naturalmente contano di scendere a un compromesso in modo che la percentuale di aumento sia minore, ma molto probabilmente si andrà verso questo sciopero che tra l'altro sappiamo che il sindacato dei metalmeccanici tedesco è forse il più forte in assoluto in Europa, quindi se si impuntano probabilmente lo sciopero si farà e come quello di 6 anni fa sarà poi avrà delle conseguenze molto pesanti per l'industria che di fatto si bloccherà. Giulia, andiamo oltreoceano, ancora naturalmente si parla della vittoria di Barack Obama e c'è un'iniziativa particolare del New Yorker. Sì, New Yorker, che sono 4 settimane che dedica la copertina alle elezioni, questa volta però c'è un disegno bellissimo, la Casa Bianca illuminata da una luna piena che poi è la O di New Yorker, come se appunto brillasse di nuova luce la Casa Bianca finalmente. Il New Yorker era naturalmente schierato per Obama, come del resto tutta New York e una buona parte anche in realtà della stampa americana. Questo numero è disponibile anche online, normalmente online al sito newyorker.com sono disponibili solo alcuni articoli, questa volta è tutto disponibile, compreso un question and answer di David Remnick, che è il direttore del New Yorker, che risponde alle domande dei lettori. C'è un approfondimento su Sarah Palin, un po' la grande nemica della stampa libera all'americana, e poi un approfondimento su Rahm Emanuel, il nuovo chief of staff, e tantissime altre cose, tante curiosità viste con entusiasmo, ma anche con naturalmente il solito rigore giornalistico del New Yorker. Grazie Giulia Crivelli, torneremo a sentirci domani sempre intorno a quest'ora per la rassegna stampa internazionale. Ora parliamo di criminalità organizzata. Ieri vi abbiamo dato il dato sul fatturato di 'Ndrangheta, Camorra e Mafia. Ieri è stato anche eletto il nuovo presidente della Commissione Antimafia, Beppe Pisano. Sentiamo il servizio di Daniele Biacchessi. 130 miliardi di euro. È una cifra cospicua che potrebbe aiutare a mettere a posto conti pubblici e rapporto deficit-PIL di un paese, migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, creare maggiori investimenti in infrastrutture e posti di lavoro. Invece quei 130 miliardi di euro entrano nelle casse delle 4 mafie italiane più importanti, vengono reinvestiti in immobili, esercizi, imprese e inquinano la nostra economia. I dati diffusi da SOS Impresa parlano di proventi da traffico di droga, contrabbando, rapine, usure e racket. Ma quello che le ricerche non dicono è che la maggioranza di quel fatturato, circa il 60%, si muove quasi tutto nel nord Italia. Solo il 40% circa gira tra Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. Perché le mafie si sono ormai radicate da molti anni dove è concentrata la ricchezza del paese. Infatti, intorno a Milano, si snodano gli affari della 'Ndrangheta. L'intero Interland è coinvolto, sono state accertate infiltrazioni nel sistema degli appalti pubblici e privati. Anche il nord-est è interessato dal fenomeno, così come Emilia Romagna e Marche. 60% nel nord contro il 40% del sud. Da oggi Beppe Pisano, uomo di grande esperienza politica e di apparati, da questi dati deve partire, perché la lotta alla mafia non passa soltanto attraverso il controllo del territorio, ma passa anche difendendo l'economia pulita da quella illegale. Un aggiornamento di cronaca, lo avete già sentito in parte nei nostri titoli. Ricorderete il presunto pestaggio di un ragazzo di 22 anni del Ghana avvenuto il 29 settembre, Emmanuel Foster, da parte dei vigili di Parma. Ebbene, oggi 8 agenti, un ispettore capo e un commissario capo della polizia municipale sono stati indagati dalla procura. Tra le accuse, percosse aggravate, calunnia, ingiuria, falso ideologico e materiale, violazione dei doveri d'ufficio. Finiti in molte regioni i fondi destinati alla sanità privata convenzionata, i pazienti sono costretti a pagare le prestazioni per intero oppure a rivolgersi al pubblico, ma spesso con lunghe liste d'attesa. In Extra Large ogni giorno vi stiamo parlando di una regione diversa, ma oggi torniamo in Puglia, perché oltre al budget limitato che in genere viene esaurito a settembre c'è un altro problema. E ce lo spiega Irene De Lucia, presidente della sezione pugliese di Federlab, che riunisce i laboratori privati, al microfono di Roberta Pellegatta. Nella regione Puglia i criteri di riparto dei fondi pubblici negli ultimi 10 anni sono stati oggetto da parte dell'antitrust di un pronunciamento del 24 aprile 2008. L'antitrust ha appunto redarguito, se vogliamo usare questo termine, il presidente della regione Puglia dal momento che il riparto è avvenuto in modo tale da favorire alcuni e discriminare altri. Mi scusi, ma sta dicendo che ad alcuni centri sono stati dati più fondi rispetto ad altri? Molti più fondi, a volte 10-20 volte più di altri centri. Questo perché si è usato come criterio di assegnazione il fatturato di un anno, del 1998. Nel 2006 finalmente la Puglia si accorge che questo è un criterio sbagliato. Emana una legge, la legge 26, in cui dice che non è quello il criterio che si deve seguire, bensì verificare quello che è la necessità del territorio e dare dei budget che siano a misura delle strutture. In effetti questa legge è rimasta completamente disattesa. A tutt'oggi non è successo assolutamente niente. Nonostante il richiamo dell'antitrust, significa per esempio che i laboratori che hanno dei budget inferiori devono indirizzare ai colleghi, diciamo, più fortunati l'utenza che si rivolge loro. Addirittura c'era imposto di avere nei nostri studi un cartello con questa indicazione: quando termina il budget di questa struttura rivolgetevi ai colleghi che hanno ancora budget. Questa è la situazione della regione Puglia. È la stampa bellezza, non è solamente la sigla della nostra rassegna stampa che sentite tutte le mattine dalle 7:20 con Bruno Perini, ma oltre ad essere il brano di un noto film, un pezzo di un noto film con Humphrey Bogart, è anche il nuovo libro di Giorgio Bocca in cui si parla della crisi dell'informazione. Daniela Binello ha intervistato Bocca. Andiamo per temi, Giorgio Bocca. Lei scrive che la pubblicità la fa da padrone nei giornali. Ma fra tutte le colpe, non è anche che in Italia si legge troppo poco? Non so se si legge troppo poco. Rispetto a 30-40 anni fa si legge molto di più, no? Le tirature dei giornali sono abbastanza alte, ma sono i giornali che non sono leggibili. Vale ancora la pena di fare del buon giornalismo e rischiare per farlo? Ma vale la pena per chi si sente di fare il giornalista, è un suo dovere farlo, è necessario che lo faccia. Che poi sia possibile nei giornali di oggi non è sempre possibile. È un problema generazionale quello di non saper più oggi tenere la schiena dritta? No, io credo che non sia una questione generazionale, sono i tempi. Adesso c'è una civiltà mondiale, globale, in cui l'economia conta di più di ogni altra questione. Il denaro è l'unico valore che esiste, quindi anche i giornalisti devono sono condizionate da questo mutamento di civiltà. Essere antifascisti è un valore che si può barattare? Antifascisti significa soltanto essere democratici. E l'antifascismo che era contro il regime fascista non esiste più, perché non esiste più il fascismo dittatura. Esiste ancora una destra che è contraria alla democrazia. Lei scrive: Bossi non ha perso tempo con la lotta di classe, si è preoccupato di occupare ministeri ed enti pubblici. Cosa c'è di sbagliato? Politicamente non lo so, anzi lui è un gran furbo e avrà fatto bene, ma questo movimento non mi pare che abbia un grande respiro, perché non mi pare che gli italiani si riconoscano nella Lega, anche se aumenta i suoi voti, ma le aumenta per ragioni diverse da quelle del lombardismo. Con i suoi libri si è tolto tanti sassolini. E questo è il messaggio? Scrivete no, libri? Non è che mi siano tanti sassolini. Ho raccontato semplicemente quello che è stata la mia esperienza. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Ok, da Bruxelles al piano per l'Italia. Oggi la compagnia aerea prevede l'annullamento di 50 voli entro l'inizio dell'anno. Lavoreremo sulla riforma del diritto di sciopero, dice ad XL il ministro Sacconi. E Sacconi commenta anche lo strappo fra il governo ed Epifani dopo la notizia dell'incontro fra Berlusconi e i soli segretari di CISL e UIL. La CGL, dice Sacconi, riflette su se stessa. Cresce l'occupazione, ma gli italiani sono insoddisfatti della loro condizione economica. I dati emergono dall'annuario dell'Istat. 10 vigili indagati per il presunto pestaggio di un ragazzo ghanese avvenuto un mese fa a Parma. È in arrivo una nuova ondata di maltempo, sarà colpito prima il nord-ovest e poi il resto del paese. La libertà di espressione e di stampa è a rischio in molti paesi del mondo. Ieri vi abbiamo raccontato il caso del blogger birmano condannato a 20 anni di carcere per aver pubblicato una caricatura di un leader militare. Oggi andiamo in Iraq, dove il nostro Adib Fateh Ali se l'è vista veramente brutta per aver osato fare delle riprese con la telecamera. Ecco la sua testimonianza. Avete filmato una postazione militare. È grave e sarete portati al comando. Siamo a Baghdad a darci l'ordine di salire un'autocivetta, sono due giovani agenti in borghese dei servizi segreti iracheni. Solo dopo apprendiamo che siamo stati pescati grazie ad una telecamera a circuito chiuso mentre stavamo riprendendo il traffico in una piazza di un quartiere sciita. Ci dicono che abbiamo filmato l'abitazione di un'importante personalità. Ci dicono che rischiamo grosso, addirittura la pena di morte. Impauriti, telefoniamo ad un influente politico iracheno per chiedere aiuto. Gli agenti si innervosiscono e ci sequestrano il cellulare e i documenti. Capiscono che sono un giornalista italiano e diventano meno aggressivi. Arrivano altri due agenti, mandano via il mio accompagnatore. Su un pulmino mi portano alla quinta sezione di Al-Qadimiyah, quella dove è stato giustiziato Saddam Hussein e dove alcuni sospettano che dentro vengono giustiziati e occultati i cadaveri di detenuti sunniti. Percorriamo un labirinto di percorsi delimitati da enormi blocchi di cemento. Mi lasciano solo in una stanza. Dopo 10 lunghissimi minuti mi portano una bibita. Arriva un colonnello in divisa. Con fare gentile mi dice di sapere tutto e spiega. Viviamo in una guerra con dei feroci terroristi. La prossima volta cerchi di evitare azioni imprudenti. Quando scriverai al suo giornale questa storia, cerchi di essere onesto. Ad esaudire la raccomandazione del colonnello, dico che se non fosse arrivata la telefonata del politico e non avessi il passaporto italiano, le cose forse sarebbero andate molto peggio. Diversi degli agenti incontrati non sanno cos'è il senso dello Stato. Il confine tra la guardia e il ladro a Baghdad mi è sembrato davvero labile. Nadif Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore, Baghdad. Ora ci spostiamo in Israele. Nick Barkat, il nuovo sindaco di Gerusalemme, candidato laico, è riuscito a spuntarla sul rivale ortodosso. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, grande conoscitore del Medio Oriente. Ti chiediamo molto in breve chi è il nuovo sindaco e che impatto, se impatto avrà, sul processo di pace. Il nuovo sindaco è l'ennesimo miliardario che si dà alla politica e quindi c'è sempre una forma di tristezza quando un miliardario crede di avere la soluzione di problemi, soprattutto di problemi grandissimi, enormi come quelli di Gerusalemme. C'è stato lo scontro fra laici e religiosi e nel a Gerusalemme hanno vinto i laici per un poco. Ma quello che conta più, ed è più importante, che forse è anche un pochettino più triste, è che tutta questa campagna elettorale amministrativa è stata giocata sul linguaggio contro il processo di pace, quel processo di pace condotto fino ad ora da Olmert e Tzipi Livni. E per vincere i candidati dovevano dire che erano contrari a quel processo di pace. E questo la dice lunga e anche triste rispetto alle prossime elezioni che politiche, quelle più importanti che si svolgeranno a febbraio. Grazie a Ugo Tramballi. Noi adesso torniamo a parlare di una guerra fredda, una guerra dimenticata. Sì, nemmeno tanto, se oggi insomma si registrano nuovi segnali di tensione tra la Russia e gli Stati Uniti sul cosiddetto scudo spaziale. Staremo a vedere cosa succederà con la presidenza Obama, ma torniamo al 1968. Gli Stati Uniti temono un attacco sovietico contro la base di Thule in Groenlandia. La difendono tenendo perennemente in volo un bombardiere armato di 4 testate nucleari. Un giorno qualcosa va storto e il B-52 si schianta sul ghiaccio a pochi chilometri dalla base. Gli americani raccolgono i pezzi, capiscono di aver perso qualcosa, cercano per anni invano una bomba atomica, manca l'appello. Mentre si torna a parlare di guerra fredda e dopo che Mosca ha deciso di rispondere alla minaccia dello scudo americano installando missili con testate nucleari ai confini dell'Unione Europea, un documentario della BBC rilancia la storia della bomba perduta dell'Artico e ci ricorda come tra i segreti militari meglio custoditi ci sia quello del numero delle testate nucleari perdute nel corso di incidenti o persino di addestramenti finiti male. Gli incidenti accertati che hanno coinvolto velivoli o navi dotate di armamenti nucleari sono decine e spesso sono state le stesse commissioni di inchiesta, di solito parecchi anni dopo, a rendere noto l'accaduto. Si sa, per esempio, che al largo della costa di Savannah, in una zona dove nel 1996 si svolsero le regate olimpiche di Atlanta, una bomba termonucleare di 4 tonnellate e 4 metri di lunghezza giace in 3 metri di fango del fondale, in attesa che venga decisa la sua sorte. Meglio lasciarla dov'è o recuperarla. A volte comunque non si recuperano semplicemente perché non si trovano. Secondo il Brookings Institution sono almeno 11 le bombe atomiche smarrite e mai recuperate da Washington, mentre sarebbero ben 92 le testate nucleari perse con o dai sottomarini sovietici e americani che si affrontano, anche oggi armati fino ai denti, lontano dagli sguardi indiscreti. Molto raramente, per fortuna, i comandi militari non possono negare l'evidenza perché gli episodi avvengono davanti agli occhi di tutti. Sopra Palomares, gennaio 1966, un bombardiere B-52 si schiantò con il K-135 che lo riforniva in volo. Delle 4 bombe termonucleari imbarcate, 2 esplosero seminando materiale radioattivo sulla Spagna meridionale. Una precipitò senza esplodere e venne raccolta subito, mentre la quarta, finita in mare, venne trovata solamente dopo 3 mesi di ricerche. La portata dell'incidente spagnolo fu enorme. Oltre 1500 tonnellate di terra e ciò che restava di una vasta coltivazione di pomodori fu portato in un deposito di scorie radioattive della Carolina del Sud e i 1500 abitanti del villaggio di Palomares, da allora, sono al centro di un'indagine sanitaria congiunta del governo spagnolo e di quello degli Stati Uniti. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. E come ogni mercoledì chiudiamo con la rubrica sul gossip. Indiscrezioni di oggi le dedicherei a rimembranze, diciamo, d'amore, di incontri piccanti. E partirei dalla giovine ereditiera diseredata, in realtà, e giustamente dico io, dal nonno della famiglia Hilton, della famosa catena internazionale di alberghi. Sto parlando naturalmente di Paris Hilton. Insomma, parla della sua prima volta. Fu a 16 anni e sul sedile di una Vespa. Insomma, sin qui ognuno lo fa come meglio crede, per carità, ma sentite come prosegue. Mi è sempre piaciuto il sesso acrobatico, complicato, dove l'uomo deve mettere alla prova le sue caratteristiche, sentite un po', psicofisiche e dimostrare di essere un vero maschio. Ma risparmiamoci di sapere cosa lei intenda per vero maschio, anche se purtroppo in qualche modo chiarisce con ciò che aggiunge dopo. Sentite un po'. La verginità va persa presto. E vabbè, ognuno decida quando vuole. Altrimenti, ecco la perla da puntarsi, resta il rimpianto di non aver provato l'ebbrezza di essere stata violata da giovane. Dice proprio così, violata da giovane. Ora, credo che inevitabilmente si configuri a questo punto un test necessario. Secondo voi, la materia cerebrale di Paris Hilton è paragonabile a un'arachide divisa a metà, b un cucchiaio di semolino abbandonato nel brodo da circa 9 giorni, c una formica pigmea con la difterite? A voi l'ardua sentenza. E sono meno nostalgici e parodistici invece, a quanto pare, i ricordi di Nicole Kidman. Vi ricordate forse che quando arrivò la rottura col divo Tom Cruise, tutto il globo pensò che l'attrice australiana fosse una donna sull'orlo della disperazione, questo per diversi anni. Eppure, a distanza di tempo, è la stessa Nicole a ribaltare a sorpresa questa interpretazione. Cosa dice? Sono rimasta da sola 6 anni, ma è stato molto meglio che vivere con lui, il nostro nostro era un rapporto schifoso. Dice proprio così, senza mezzi termini, schifoso. Ci lascia, a dire il vero, un po' sospesi, senza rivelare poi i motivi di questa schifezza di rapporto, ma certo si vocifera da tempo di strane fissazioni di Tom Cruise, tra cui la sua totale adesione alla setta di Scientology. Chissà se anche la nuova moglie, Katie Holmes, avrà modo di godere di queste misteriose manie. Infine, Valeria Marini, di ritorno dall'isola dei sgarupati famosi, forse provata dall'esperienza o magari resa più franca dal ritorno al cibo a profusione e agli agi di una vita di terraferma, è a sua volta in vena di confessioni piuttosto intime. L'amore saffico esordisce con l'anima senza veli, è una cosa bella, eccitante e quindi, dice, non disdegno. Ho baciato una donna, rivela, sì, anche più di una volta. E alla domanda, è meglio baciare un uomo o una donna? Lei ha risposto, è diverso, e come darle torto del resto? La showgirl parla anche della sua relazione con Vittorio Cecchi Gori e delle loro notti d'amore, dicendo lo chiamavo Duracell, nel senso, dico io, che assomigliava forse al coniglietto semovente a batteria della pubblicità, chissà. E poi, sempre più scabrosa, continua, sentite un po', mi piacerebbe in futuro avere un ruolo magari da ministro. Valeria, cuoco e tu, mi chiedo, dobbiamo allora cominciare seriamente a preoccuparci? Tuttavia, ella promette meglio di altri, secondo me. Sentite, vorrei farlo con un programma ben preciso, un partito giusto che abbia un programma per le donne. E non cominciate subito voi a maliziare su possibili slogan tipo più tette per tutte, perché io ho fiducia. E a questo punto Roberta Giordano si ferma qui e con il gossip vi dà appuntamento al prossimo mercoledì. Ok, da Bruxelles al piano per Alitalia, oggi annullati 50 voli entro l'inizio dell'anno al lavoro sulla riforma del diritto di sciopero, dice ad XL il ministro Sacconi. E Sacconi commenta anche lo strappo fra il governo ed Epifani, dopo la notizia dell'incontro fra Berlusconi e i soli segretari di CISL e UIL. La CGL, ha detto Sacconi, rifletta su se stessa. Cresce l'occupazione, ma gli italiani sono insoddisfatti della loro condizione economica, i dati dall'annuario Istat. 10 vigili indagati per il presunto pestaggio di un ragazzo ghanese avvenuto un mese fa a Parma. E in arrivo una nuova ondata di maltempo, sarà colpito prima il nord-ovest e poi il resto del paese. Ed è tutto per questa edizione di GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. Si torna domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.